spiegato di una volta, ascolta perché noi ti abbiamo ascoltato, sei diventato imputato, giudicato, noi ti abbiamo osservato dal primo battito del cuore fino ai ritmi più brevi dell'ultima emozione, quando ogni incisione favoriva il potere in attesa della sua celebrazione. E se tu la credevi vendetta, era solo l'urgenza del potere sulla massa, cercavi il ruolo più eccitante che passa tra i comma della legge, quello che non protegge ma odia la parte del boia, imputato la parte del boia. Il dito più lungo della tua mano è il medio, quello della mia è l'indice, eppure anche tu hai giudicato. Per come lo hai rinnovato, il potere ti è grato. Una volta un giudice come me giudicò chi gli aveva dettato la legge. Prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Oggi un giudice come me lo chiede al potere se può giudicare. Tu sei il potere. Vuoi essere giudicato? Vuoi essere assolto o condannato?